Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Oggi comincia la giornata elettorale in Europa, in America è ancora notte, fra un po' si risveglierà l'America e andrà a votare per scegliere il nuovo presidente per i prossimi 4 anni. È una data importante non solo per l'America, ma dato che si tratta di America per tutto il mondo. Oggi abbiamo con noi Ugo Tramballi, buongiorno Ugo Tramballi. Buongiorno. Ugo Tramballi è inviato del Sole 24 Ore, ha scritto domenica un articolo se votasse tutto il mondo e proprio nella prospettiva che questa elezione è un'elezione che interessa tutto il mondo, che guarda all'America perché l'America condiziona tutto il mondo. Io vi ricordo che Radio 24 da questa sera alle 21 farà una lunga diretta fino alle 11 di domani mattina per seguire appunto le elezioni americane. I primi risultati arriveranno tra l'una e le due di notte e se questi risultati saranno abbastanza chiari e netti potremo già appunto domani mattina a quest'ora avere un sicuro vincitore e commentare anche questo vincitore. Ma stiamo appunto sui fatti della vigilia, ricordo gli ascoltatori il numero verde 800 24 00 24 se vogliono intervenire e chiedo ad Ugo Tramballi se votasse tutto il mondo, ma in pratica in qualche modo il mondo condiziona anche l'elezione americana oppure l'America sceglie guardando un po' al proprio interno? Come sono queste elezioni? No, sfortunatamente, dico sfortunatamente da europeo, da uno che non ha il passaporto americano in tasca, gli americani non tengono molto conto della nostra opinione, dell'opinione di noi europei, di africani, medio orientali, latinoamericani, asiatici, eccetera. Se lo facesse probabilmente farebbe forse scelte un pochettino più oculate, forse quantomeno non sceglierebbe, forse non verrebbe scelta come vicepresidente candidato un personaggio come Sarah Palin, che è molto distante dal sentire comune di centro, di destra o di sinistra europeo. Tuttavia comunque gli americani se appunto guardassero un pochettino come il mondo, come anche punto di possibile riferimento del loro giudizio elettorale interno, scoprirebbero, ma temo che lo sappiano perfettamente, spero che lo sappiano perfettamente, che in questi ultimi anni sono molto detestati. Per motivi di lavoro ho girato il mondo in questi ultimi 8 anni, in particolare il Medio Oriente, e soprattutto in Medio Oriente gli americani sono estremamente detestati, con gli americani tutti noi occidentali. Non solo in paesi dove ci si aspetta che possa succedere, come che so, Siria, Iran, ma anche in paesi tradizionalmente assolutamente moderati e molto, come dire, in debito nei confronti della politica americana in Medio Oriente. Mi riferisco al Kuwait, che è stato liberato nel 1990, mi riferisco all'Arabia Saudita, la cui sicurezza continua ad essere garantita dagli americani, e tutti i paesi del Golfo, mi riferisco all'Egitto, che è anche quello, alla Giordania, che è un paese che esiste economicamente solo grazie all'aiuto americano, al Marocco. Ecco, ma è una posizione di questi paesi, di quest'area medio orientale, che dipende dall'amministrazione americana, cioè dalle scelte che ha fatto l'amministrazione Bush negli ultimi anni, e quindi possiamo considerare questo atteggiamento come un atteggiamento più politico che strutturale? Assolutamente sì, è chiaro che poi il passaggio successivo è molto facile, cioè dal detestare una determinata amministrazione, un determinato presidente, una determinata politica, e detestare poi l'America in quanto tale, il passaggio è molto semplice. Però sì, sono convinto che nel momento in cui ci fosse un presidente diverso, non necessariamente Barack Obama, ma anche un McCain, che ha una politica diversa, per esempio in quella regione dove l'America in questi ultimi 8 anni è stata estremamente attiva, combattendo 2 guerre, se parliamo del Medio Oriente allargato fino all'Afghanistan, aprendo basi militari ovunque, sicuramente se cambiasse la politica americana, se fosse una politica un pochettino più attenta, diciamo, verso le esigenze della regione, sicuramente l'opinione, almeno in questi paesi moderati, cambierebbe. Ecco, tu concludi il tuo articolo di domenica dicendo proprio l'America ha urgente bisogno di essere di nuovo amata del mondo, e proprio adesso dici in fondo qualunque presidente sarà un nuovo presidente, sia Obama sia McCain dovranno comunque cambiare la politica americana, la politica estera americana, dovranno comunque avviare una strategia non unilaterale in cui l'America imponeva la propria visione, ma una strategia multilaterale in cui si discuterà della nuova visione del mondo, questo anche da un profilo economico-finanziario, cioè l'America è al centro della grande crisi finanziaria attuale, è in fondo stata la protagonista in negativo di questa crisi finanziaria, ha portato il virus di una finanza esuberante al di là dei propri confini. anche in questa prospettiva l'America deve recuperare credibilità. Beh, certo, la crisi finanziaria ha ulteriormente aggravato la credibilità americana nel mondo, anche perché questa crisi non è una crisi finanziaria che so dovuta alle bolle speculative di un sistema finanziario che non è trasparente come potrebbe essere in alcuni paesi asiatici, sono i chai bowl coreani o in sistemi economici come quello cinese che comunque sono molto determinati da valori politici non certo democratici. Qua invece è una crisi della finanza, dell'economia, della trasparenza tradizionale del capitalismo democratico e liberale occidentale, quindi anche qui dovrà cambiare notevolmente tutto quanto. Però è vero, cioè io credo che il mondo abbia voglia di riamare gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti comunque rappresentano un simbolo e perché poi un mondo così caotico, per quanto sia fatale che sia sempre più multipolare, ha bisogno però di un primus inter pares, come sono stati gli americani in questi ultimi 60 anni, per guidare i grandi cambiamenti. Abbiamo un ascoltatore in linea, Raul da Padova, buongiorno. No, grazie per poter intervenire. Io volevo dire che Obama incarnifica la speranza, il mondo nuovo, le possibilità nuove che ci possono essere. Io personalmente, non so che non vale, ma io personalmente lo voterei, perché è quello che vorrei per l'Italia, che Berlusconi facesse qui per l'Italia, comandasse, perché comanda il popolo e lui che ha la maggioranza. Ecco, mi auguro che Obama abbia la sua vincita, ecco. Oltretutto è nero, dunque incarnifica quelle le speranze di tutto il mondo, ecco. Grazie mille, quindi un endorsement del nostro ascoltatore per Obama che si è presentato come il volto nuovo dell'America. Ma Ugo Tramballi, Obama è più un sogno o più un programma? È tutte e due. Intanto una piccola precisazione, Berlusconi non può essere come Barack Obama, come qualsiasi Presidente degli Stati Uniti, perché il Presidente degli Stati Uniti è costituzionalmente una specie di dittatore democratico, per 40 anni governa con un potere estremo. Per 4 anni. Il Presidente del Consiglio invece è il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi è veramente un primus inter pares con dei poteri più limitati. Però ecco, Obama è sia una speranza sia un programma, cioè non è che non si può dire che non manchi un vero programma. Come non mancò a Bob Kennedy, a John Kennedy, a tutti gli uomini che hanno dato anche molta speranza, ma anche molti contenuti. E quali possono essere i cambiamenti più radicali che Obama potrebbe portare nell'immediato, ovviamente da gennaio, quando entrerà in carica? Se entrerà in carica, ovviamente, perché le urne sono ancora chiuse, devono aprirsi e dovranno poi dalle urne venire fuori il vero risultato. Naturalmente ipotizziamo questo, che Barack vinca. Beh, intanto è proprio nello spirito, cioè l'America è sempre stato capace, diversamente da noi europei, di cambiare molto rapidamente, e quando cambia si innesca uno spirito nuovo, ma succederebbe, se Barack vincesse, sicuramente a partire dai mercati, anche se in realtà non è ancora cambiato nulla rispetto all'altro ieri. Il fatto stesso che l'America scelga un leader nuovo, con idee diverse, con una politica, con un approccio quasi filosofico diverso rispetto all'ultimo, per gli ultimi 8 anni, credo che già il cosiddetto sense sarebbe molto diverso. E poi ci sono i programmi, sicuramente l'America deve guardare più al sociale. Certamente. Ecco, su questo fronte probabilmente Enzo da Carbonia vuole dirci qualcosa. Buongiorno. No, buongiorno. La mia considerazione è questa, che con una situazione di crisi così profonda, la scelta di Obama sarà mirata esclusivamente per gli americani proprio al sociale. Però, pur pensando al sociale, io credo che gli impegni presi a livello internazionale, gli americani, non potranno disdirli, anzi dovrà mantenerli, perché l'industria americana si basa principalmente sull'industria pesante, e io vorrò vedere il tipo di sviluppo degli Stati Uniti d'America senza un impegno profondo nell'industria pesante. Quindi per noi italiani, per noi europei, io credo che non cambi granché. Grazie mille, cioè l'America in fondo deve fare il suo cammino anche dal punto di vista economico, quindi un presidente o l'altro non può cambiare molto, ma probabilmente Ugo Tramballi non è della stessa idea. No, non può cambiare molto per quanto riguarda noi europei, perché tocca a noi europei cambiare, cioè sicuramente per esempio viaggiando per gli Stati Uniti molti avranno notato che c'è un debito serio di infrastrutture, strade, ponti, anche gli aeroporti cominciano ad essere logorati. certamente un grande investimento nelle infrastrutture può essere una forma di rilancio molto importante per l'America. È ovvio che se gli americani costruiscono 1000 ponti noi in Europa non ne sentiremo gli effetti, ma ne sentiremo gli effetti in maniera indotta, perché se attraverso, che so, le infrastrutture piuttosto che altre iniziative l'economia americana si rimette in moto, automaticamente, proprio perché il paese è più importante dell'Occidente, più importante del mondo, un'economia americana solida non si riverbera, è sempre stato così nella storia, si riverbera automaticamente nella solidità anche dell'economia europea. Ecco, l'economia americana è vista molto spesso come un'economia molto privata, molto fondata sul mercato, però in America anche il ruolo del pubblico è molto importante. Negli ultimi 8 anni questo è stato totalmente dimenticato, a beneficio infatti del privato, cioè l'amministrazione Bush. Ideologicamente avete notato anche come Paulson, le difficoltà di Paulson di affrontare, di applicare scelte, come dire, più stataliste, proprio perché ideologicamente sono lontanissimi da questo. Se la scelta appunto di espandere la presenza statale per non far fallire le banche o comunque per affrontare di più il sociale è una necessità, come sembra esserlo, io non sono un economista ma sembra tutto far sembrare che lo sia, certamente un presidente più ideologicamente, se possiamo dire, più portato, più votato a fare questo che un presidente come per esempio George Bush lo era, ideologicamente contrario a questo, diventa più credibile poi l'applicazione di questo. Per questo i mercati americani non hanno reagito come quelli europei, perché Paulson o George Bush non erano affatto credibili nel ruolo di imprenditori statali. Insomma. C'è anche un problema di recuperare appunto una credibilità perduta anche sul fronte finanziario. Stiamo parlando di elezioni americane, oggi è il grande giorno della scelta del grande paese tra Barack Obama e McCain. Ne parliamo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, ma lascerei la linea ad Alberto da Roma. Buongiorno. Buongiorno, lei in viaggio probabilmente. Alberto da Roma. Si sentono dei rumori di fondo ma non la voce. Vediamo se c'è Stefano da Genova. Buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, prego. Allora, 4 osservazioni velocissime. Che una, il signore me l'ha preceduta, non so quanti benefici avrà Obama per l'Europa, ma mi sembra che il vostro ospite l'abbia già chiarito. Allora, una è una bellissima notizia, perché già da domani Bush non c'è più. Questa è una bella notizia, perché dal mio punto di vista, il peggior presidente dell'America, forse il peggiore della storia dell'America, se non uno dei peggiori. Per cui questa è già una grande notizia. L'altra osservazione è che mi sembra che l'elezione di Obama, a prescindere dai contenuti, che poi tante persone sanno recepire e altri no, deriva anche molto da un fatto mediatico. Obama si presenta bene, è un bell'uomo, è nero, e tutti speriamo che vinca, però direi che il fatto mediatico, specialmente per il mondo non americano, per il mondo un po' europeo, abbia sicuramente avuto una sua valenza molto importante. E poi niente, solo più osservazioni sono queste. Un'altra cosa, no, che mi sembra che sul carro di Obama si stiano buttando un po' tutti, no? Specialmente in Italia siamo famosi, no? Adesso tutti sono per Obama, non lo voleva nessuno, adesso il 90 tutti destra, la sinistra lo è sempre stato, anche la destra tutti per Obama. Ecco, la ringrazio di queste considerazioni. Sì, in parte ovviamente lo sport di saltare sul carro del vincitore è uno sport che l'Italia conosce molto bene, e sul fronte della prima osservazione, ecco, sottolineiamo che Bush resta ancora in carica fino a metà gennaio, anche se ovviamente in Italia si direbbe per sbrigare gli affari correnti, ma il vero passaggio di investitura viene a metà gennaio. Comunque è chiaro che il nuovo presidente condizionerà moltissimo anche quello che il presidente in carica potrà fare nelle prossime settimane. Ugo Tramballi. Sì, no. Personalmente non posso che condividere il secondo punto, avendo seguito in questi 8 anni gli effetti della politica dell'amministrazione Bush, soprattutto nella più calda delle aree del suo svolgimento, cioè il Medio Oriente, ed essendo personalmente stato contrario anche sulle pagine di questo giornale sin dall'inizio, da prima che scoppiasse alle motivazioni dell'invasione dell'Iraq, non può che fare piacere anche a me alla fine di 8 anni di incubo, ma non lo dico da destra, da centro, da sinistra, lo dico da europeo, da alleato degli Stati Uniti, da uno che ha studiato negli Stati Uniti, che ha sempre amato questo paese e che ha sempre colto la necessità di questo paese per il mondo. E vedere in questi anni appunto invece cosa era diventata l'America, trascinandosi dietro anche i nostri valori, perché quando noi pensiamo alla prigione di Guantanamo, la prigione di Guantanamo è un insulto ai nostri stessi valori, che sono l'arma più potente con la quale combattere nel mondo per affermare i valori di democrazia, di uguaglianza, di rispetto delle leggi, di diritto, di diritto proprio, di certezza del diritto. Comincia un'era nuova, ma anche se vincesse McCain, che è un uomo di grandissimo valore morale, un uomo molto coraggioso, un uomo di grande dignità e soprattutto un repubblicano internazionalista, cioè quella storica, la tradizione, la vera tradizione repubblicana, che non è quella di George Bush figlio, ma quella semmai di George Bush padre, cioè la tradizione dei repubblicani che hanno sempre considerato le loro alleanze, le istituzioni internazionali create dagli stessi Stati Uniti come il punto centrale della forza dell'America nel mondo. Ecco, questo comunque ritornerebbe, quindi quegli 8 anni, anche se gli strascichi continueranno per molti anni, questi 8 anni direi da incubo, e mi assumo la responsabilità personale del giudizio, almeno questi ce li siamo lasciati alle spalle. Vediamo se Alberto da Roma è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. La mia domanda era se c'erano dei vantaggi o dei svantaggi per l'Italia in Europa se diciamo vinceva Obama o McCain. Grazie, mi sembra una domanda abbastanza esplicita. Ugo Tramballi, mettendoli sul piatto della bilancia, l'Europa per i propri interessi chi dovrebbe scegliere? Ma non credo che sia così essenziale, perché appunto, come dicevo prima, anche McCain rappresenta comunque un cambiamento. Certo, forse Sarah Palin no, ma McCain sicuramente rappresenta un grande cambiamento, quindi in realtà non c'è una grande differenza, però non possiamo non annotare, non constatare che comunque quello che Obama rappresenta come cambiamento sarebbe, cioè la speranza che comunque trascina dietro di sé, non solo, come diceva prima il nostro ascoltatore, per una questione mediatica, perché nero, essere nero è una cosa molto importante, diventare il primo presidente nero degli Stati Uniti. Sicuramente Obama avrebbe un effetto non solo sull'Europa ma sul mondo intero, di speranza e di cambiamento. Naturalmente questo vuol dire che anche che potrebbe esserci un effetto poi negativo, cioè più alta è la speranza, più alta rischia di essere la delusione. Delusione, infatti. Sentirei un ultimo ascoltatore, Roberto da Firenze, rapidamente se può. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, ho sentito un commento prima sul fatto che l'amministrazione Bush avrebbe un po' dimenticato il settore privato, il settore pubblico, ma in realtà è stato gli 8 anni di Bush uno dei più grossi aumenti delle spese governative della storia americana. Sono andate però in direzioni, cioè nella difesa, nella sicurezza, aiuti alle aziende petrolifere, non dimentichiamo che hanno avuto aiuti giganteschi in questi anni, quindi non mi sembra del tutto corretta come valutazione. Certo che è cambiato il modo di usare il settore pubblico oggi serve a quello, non più a aiutare chi ha bisogno. La ringrazio. Ugo Tramballi. Beh, la giusta notazione dell'ascoltatore conferma appunto quanto sia, per certi versi, siano stati detestabili questi 8 anni, perché diciamo il denaro pubblico è stato usato o per ragioni ideologiche o per ragioni quasi privatistiche. Non dimentichiamo che che George Bush viene da una famiglia di petrolieri e che Dick Cheney, il vicepresidente, è stato amministratore delegato di Halliburton e probabilmente ci ritornerà. Qualche conflitto di interessi? Qualche piccolo conflitto di interessi, altro che i nostri italiani, questi sì sono conflitti di interessi tosti e pesanti. E per quanto riguarda le spese militari, appunto, miliardi e miliardi di dollari buttati in nome di non di una vera difesa del territorio nazionale, di ideali, eccetera, ma di un puro interesse ideologico, un puro valore ideologico. Quindi sicuramente l'America sta cambiando strada, abbandona forse senza troppa nostalgia l'era di Bush. Domani avremo un nuovo presidente che, lo ricordo, entrerà in carica a gennaio. Di sicuro sarà un nuovo presidente. Le posizioni dei due candidati, i sondaggi continuano a indicare Obama in testa, ma i sondaggi bisogna prenderli sempre con le molle, e probabilmente le possibilità di entrambi sono ancora immutate. Domani mattina potremmo anche avere qualche sorpresa, vediamo in quale direzione, a seconda poi delle simpatie di ciascuno. Comunque io ringrazio Ugo Tramballi di essere stato con noi, ringrazio Carmelo Lauricella in regia, ringrazio gli ascoltatori, l'appuntamento è per domani nell'ambito della diretta sulle elezioni americane.